come testimoniare di Cristo. Il desiderio di testimoniare di Gesù Cristo è buono e va incoraggiato, ma non sempre è motivato da puri interessi e da una adeguata preparazione. Quando ero giovane nella fede bastava citare o leggere qualche versetto della Bibbia, perché all'epoca ne era proibita la lettura dal cattolicesimo. Ma all'inizio del XXI secolo sono oramai molte le persone che conoscono la Bibbia, eppure preparate a rispondere adeguatamente. Anche se sembra impossibile, si può testimoniare con la sola intenzione di vedere crescere il numero dei credenti che frequentano la nostra comunità per essere più compiaciuti, dimenticando però che questo non deve essere il nostro scopo, dato che, riguardo al numero di persone, ne crescono anche nei cimiteri. A volte si può testimoniare per altri interessi, come conquistare qualcuno dell'altro sesso o sentirsi importanti. Altre volte si può testimoniare per dare uno schiaffo ad altre comunità, oppure, come al tempo dell'Apostolo Paolo, si può predicare il Vangelo per invidia. E, giunto il momento, forse troppo tardi, di essere dei testimoni qualificati e preparati, perché l'estemporaneità e la disponibilità non sono sufficienti. Propongo almeno 7 ragioni per essere qualificato nell'onorevole compito di predicare il Vangelo. 1. Occorre conoscere Gesù Cristo personalmente, Nuovo Testamento e 2 Corinzi 5:17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Il Vangelo non è solo l'annuncio di una buona notizia, ma è la proclamazione di una realtà e di una vita che si è realizzata e che si sta realizzando. Quando si predica il Vangelo di Cristo, non si tratta di annunciare un prodotto a noi sconosciuto o del quale non sperimentiamo la potenza, si tratta di far sapere alle persone che Gesù è la vita e il Salvatore degli uomini e che chi predica ne vive la potenza. Il cristiano è colui che ha ricevuto il perdono, ora e per sempre, di tutti i peccati, quelli passati, quelli futuri e quelli che commette mentre vive, e, per questo, ha ricevuto ora la vita eterna. Cioè appartiene a Cristo per l'eternità. Nessuno è in grado di annunziare un tale messaggio se non lo ha realizzato e non lo vive. È vero che milioni di religiosi in tutto il mondo, ogni giorno, leggono la Bibbia. Predicano che Cristo è il Salvatore del mondo, ma sono solo parole religiose che non hanno sperimentato. Chi cerca una religione per acquietare la mente li segue, ma essi non sono diventati delle nuove creature, e le cose vecchie, per loro, non sono passate. Come disse Gesù ai religiosi del suo tempo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito. E quando lo avete fatto, lo rendete figlio della Geenna il doppio di voi». Perciò, chi predica il Vangelo deve prima di tutto accertarsi di aver realizzato la nuova nascita, cioè se un determinato giorno ha fatto la scelta di rinunciare a condurre a modo suo la propria vita, per viverla secondo il volere di Cristo. Non è una decisione sentimentale, ma una deliberazione disposta a tutto pur di adempiere le parole di Cristo. Gesù ha dato la sua vita per te, tu devi dare la tua vita per Lui, con una differenza. Gesù era ed è giusto, tu sei ingiusto e bisognoso della sua opera di salvezza. 2. Bisogna avere UNARDE, Nuovo Testamento e desiderio di testimoniare, Romani 15:20. Avendo l'ambizione di evangelizzare là dove non era ancora stato nominato Cristo, per non edificare sul fondamento altrui. Nel parlare di Cristo, occorre fare attenzione a non considerarlo come un passatempo. Non si predica il Vangelo perché non si cosa fare, o perché è un'attività piacevole, o eventualmente perché è gradita la compagnia con la quale siamo, ma la testimonianza deve scaturire da un incontrollato obiettivo di voler annunziare il messaggio del Vangelo. Perché un incontrollato obiettivo? Perché chi lo predica sa che il Vangelo è la potenza di Dio per salvare chiunque pone fede in esso e perché Dio ha deciso di salvare le persone mediante la pazzia della predicazione. Questa è la ragione per la quale Paolo e altre migliaia di persone, tra le quali anch'io, hanno consacrato la vita per annunziare in Cristo la riconciliazione con Dio. Se la vita è come una moneta che si può spendere come si vuole, ma una volta sola, allora, per chi è cosciente della potenza di Dio e del suo amore, non può passare giorno senza avere il cuore ardente del desiderio di proclamare il perdono dei peccati in Cristo. Chi ha accettato il Vangelo possiede un fuoco inestinguibile che lo costringe a parlare. A parlare per chi ha creduto. 3. Bisogna desiderare A, R, D e Nuovo Testamento e M e Nuovo Testamento e L, a conversione del prossimo Romani, 1:15. Così, quanto a me, sono pronto ad evangelizzare anche voi che siete in Roma. Infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede. In fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Per chi predica il Vangelo questo è forse l'aspetto più delicato. Poiché è scritto che Dio ha messo nel credente la parola della riconciliazione, 2 Corinzi 5:19, è normale che un figlio di Dio sente il bisogno di predicare il Vangelo che dà vita, ma non tutti partono dal giusto presupposto che ogni persona sia perduta, intendendo con questo che l'umanità è incamminata verso la condanna eterna. Molti predicano il Vangelo come un messaggio morale, ossia che tutti devono comportarsi bene, amarsi, in modo che ci sia la pace e l'intesa sociale. In definitiva, per questi credenti l'importante è che le persone vivano onestamente, se poi sono perdute, è una cosa che le riguarda relativamente. Chi predica il messaggio evangelico, se vuole essere all'altezza del compito, deve partire dal presupposto che l'ascoltatore sia perduto e, solo così, riuscirà a portare frutti nell'opera di Dio. Sta scritto, maledetto chi fa smarrire al cieco il suo cammino, Deuteronomio 27:18. Questa brutta condanna non è solo in senso reale, ma anche spirituale, perciò chi non mostra al cieco, cioè all'incredulo, la sua cecità, è da Dio severamente giudicato. Conviene essere preparati a predicare il Vangelo? 4. Occorre prepararsi adeguantico testamento AM e Nuovo Testamento E, 2 Timoteo 3:16. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Ho già detto che bisogna essere preparati o qualificati per predicare il Vangelo, ma in questo caso si vuole dire qualcosa di più. Appena si è posta una reale fede in Cristo, la gioia è tanta che si sente il bisogno di dirlo agli altri, anche in un modo inadatto. Ciò è giusto e normale, come è giusto e normale che un bambino appena nato emetta dei vagiti. Ma come non è giusto e normale che un bambino continui a emettere ancora vagiti dopo 6 mesi o 1 anno, così è giusto che un figlio di Dio, dopo aver sperimentato la nuova nascita, arricchisca il suo linguaggio di salvezza. Come avviene in natura, il bambino apprende il linguaggio dei genitori, come un figlio di Dio apprende il linguaggio biblico nel luogo dove si trova, ma non può accontentarsi di questo. Chi è nato di nuovo deve ogni giorno nutrirsi della parola di Cristo, deve studiare il testo biblico perché la parola di Dio possa penetrarlo e impadronirsi dei suoi pensieri e delle sue parole. In definitiva, chi predica il Vangelo non deve accontentarsi delle semplici riflessioni della maggioranza della comunità, ma dirà ciò che lo Spirito Santo avrà rivelato al suo cuore, parteciperà con tutto lo zelo e l'amore i beni ricevuti dalla lettura. Ogni figlio di Dio è una nota speciale nel grande concerto del Regno di Dio. Per questo non cercherà di copiare gli altri nell'esprimersi, anche perché dovrà trasmettere la sua nota, la quale sarà proprio quella adatta agli ascoltatori. Tu puoi suonare solo la tua nota. Se ne metti un'altra sarai stonato e le persone scatteranno davanti a chi sbaglia l'intonazione. 5. Mettere enfasi sulla persona di Gesù. 1 Corinzi 2:1. Anch'io, fratelli, quando venni da voi, non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Non si dovrebbe neppure nominare questo aspetto, ma quando si predica il Vangelo si è arrivati ad esortare i cristiani ad annunciare Gesù Cristo. Assurdo, perché il Vangelo interessa Gesù e Lui solo. Eppure tanti credenti sono talmente impigliati in discussioni di vario genere, da dimenticare di annunziare l'indispensabile, cioè che i peccati sono tutti perdonati per la morte di Gesù Cristo, e che Dio ha fatto la pace mediante il sangue della croce di Cristo, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nel cielo, Colossesi 1:20. Se non si dicono queste cose non si predica il Vangelo, anche se si narrano interi episodi della Bibbia. Come è stato ben detto, bisogna sempre predicare sui testi biblici, con lo scopo di far emergere la persona di Gesù e la sua opera salvifica. Se comunichiamo un particolare testo biblico, senza inserirlo nella storia principale della rivelazione di Cristo, stiamo sicuramente cambiando il senso che quel medesimo brano ha per noi. Diventa un'esortazione di tipo moralistico più che una chiamata a vivere per la fede nell'opera di Cristo. Alla fin fine esistono solo due modi per leggere la Bibbia, applicandola a noi stessi oppure applicandola a Gesù. Qual è la finalità della parola di Dio? Quella di dire cosa l'uomo deve fare oppure quella di testimoniare ciò che Cristo ha fatto? Domande importanti. 6. Indispensabile dedicare del tempo, 2 Timoteo 4. 2. Predica la parola, insisti, in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Se testimoniare di Cristo diventa una delle priorità della vita, va da sé che bisogna essere convinti di doversi riservare meno in questa età indaffarata, meno del tempo per annunziare il Salvatore del mondo. Lo si fa certamente quando ci si trova occasionalmente con altri, ma occorre proprio togliersi del tempo prezioso e dedicarlo alla predicazione del Vangelo. Per quanto mi riguarda, quando andrò alla presenza di Cristo, nessuno potrà incolparmi di non aver avuto il tempo di assisterlo nella lettura della Bibbia. Non so se ho passato più tempo in casa mia o in casa di altri. E questo perché ho preso sul serio ciò che Gesù ha detto. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Luca 14:26. E ancora, e chiunque ha lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, moglie, figli o campi, per amore del mio nome ne riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna. Matteo 19:29. Certo, non significa seguire Gesù per trascurare i doveri matrimoniali e familiari, ma quando si è dato l'indispensabile a quelli di casa propria, e si sanno discernere i capricci dal reale bisogno, il regno di Dio deve avere la precedenza. Nulla si ottiene senza sacrifici, e più costerà la lontananza dalla famiglia, più prezioso sarà il servizio per il regno di Dio. Perciò, quando ci si sposa, occorre partire unanimi con il programma di dedicare del tempo illimitato per predicare il Vangelo della salvezza di Cristo Gesù. Un'anima salvata è un bene che si ritrova nell'eternità. Saggiamente, dice il libro dei Proverbi, chi fa conquista di anime è saggio. Proverbi 11:5. 7. Aspettare dei risultanti col testamento ai 1 Corinzi 9:10. Chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte. Non si è dei veri testimoni di Cristo se non si ha una visione oltre il presente. Spesso, quando si testimonia, si vedono subito pochi risultati e, il più delle volte, si è scherniti e oltraggiati. Non importa. Le poche volte in cui qualcuno ti confida di ricordarsi ciò che hai detto 20 o 30 anni prima, sono incoraggiamenti che non si devono dimenticare. Proprio per questo, a molte persone ottuse e apparentemente insensibili, ho detto di pregare in punto di morte e di accettare il perdono di Cristo, confessando i peccati. Su questa terra non potrò mai sapere se qualcuno lo ha fatto, ma sono certo che qualche anima in punto di morte lo abbia fatto. Perché? Perché ho notato come alcune fra le molte persone in precedenza contrarie a Cristo, trovandosi in certe penose circostanze, abbiano creduto, mentre altre sono diventate molto più disponibili. Come è scritto, chiunque avrà invocato il nome di Cristo sarà salvato. Questo è il Vangelo allo stato puro da predicare. 2:01:21:1:17 Ellero.